Elle avait des yeux opaques, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie, je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà. Io sono spesso accusato di essere un buffone, un guitto e un istrione, in parte è vero naturalmente, ma non è questo il mio mestiere, se lo sono è per accidentali circostanze dovute alla mia equazione personale. Oggi invece dedicherò la puntata appunto ai buffoni, ai guitti e agli istrioni che lo fanno per mestiere, lo fanno per deliziarci, lo fanno per schiuderci aperture e fissure nella nostra grigia e quotidiana realtà che altrimenti noi non avremmo modo, con la nostra visione piatta, coerente, razionale della realtà, di avere aperte. Oggi parlo per tutti quelli che fanno spettacolo, per tutti quelli che simulano mondi paralleli, per tutti quelli che ci raccontano ciò che non vediamo, che hanno questa possibilità fantastica, che hanno appunto attori, uomini di spettacolo, uomini di scena, uomini che riescono a immaginare altri mondi e ce li fanno intravedere. Persone maledette, persone che in altre epoche non avevano nemmeno la dignità di essere seppellite in terra consacrata. Perché colui che si fa mediatore tra queste realtà, in realtà è qualcosa che mette fortemente a repentaglio gli ordini costituiti. Detta questa premessa, oggi naturalmente ci dedicheremo a questa fantastica menata che è la giornata che oggi deve essere dedicata appunto al blackout di tutti i teatri e di tutti i luoghi di spettacolo per una protesta lecita riguardo ai tagli che erano stati fatti sulla cultura, che in realtà sono stati in parte recuperati. Arrivano i soldi alla cultura e allo spettacolo perché sono stati compensati aggiungendo qualche liretta al prezzo della benzina. Questo naturalmente farà inorridire, farà arrabbiare le persone che vivono di quotidiano, le persone che non vogliono vedersi spalancare davanti nessuna fessura, le persone che mi scrivono ogni giorno e mi dicono: sarebbe ora che alla tua età finalmente vai a lavorare. Ecco, a me continuamente mi scrive gente e mi dice: ma perché non vai a lavorare? Tu non sai cosa significa lavorare, è una vera giornata di lavoro, ti ci vorrebbe. Ma io penso, se lo dicono a me che faccio il giornalista, che tutto sommato ho una parvenza di lavoro che potrebbe in qualche maniera assomigliare a un lavoro faticoso, pensate cosa potrebbero dire a un attore, a un impresario teatrale, a un produttore cinematografico. Diranno: tu beato, fortunato, non fai niente, ti diverti, vai a teatro, fai il buffone, guarda noi che lavoriamo, guarda noi che produciamo. Beh, questa mattina vorrei seguire un filo e un impegno che si è presa questa radio da qualche giorno, dedicando tutta la settimana nei suoi diversi programmi al mondo del teatro, al mondo dello spettacolo, ma in particolare al teatro, che è un mondo che mi affascina moltissimo. Ancora sono poche le persone che dicono con orgoglio: vado al teatro, seguo teatro. Noi legate al teatro abbiamo l'idea di questi anziani pensionati che fanno l'abbonamento perché non sanno dove andare, quindi si mettono lì nei teatrini con il pandolone, si appisolano con il panino dentro la borsetta, ma in realtà è un mondo fantastico, un mondo che vive e sopravvive ad onta di tutto quello che in realtà lo circonda. Giorni fa ai nostri microfoni Sergio Escobar, il direttore del Piccolo Teatro di Milano, ha lanciato una proposta, quella di fare una costituente per il teatro che appunto ne garantisca un sostegno sensato, una nuova progettualità e un po' di certezze per chi lavora nel teatro. Questo è quello che ha detto Escobar, lo dice da Milano, dal Piccolo di Milano, da un ambiente che comunque ha blasone e riconoscimento. Noi questa mattina invece abbiamo voluto dedicare il nostro tempo, il nostro spazio, e speriamo che il pubblico che ci ascolta cominci a chiamare all'800240024 per dire il suo punto di vista di questa reliquia di un tempo eterno, di un tempo che al di fuori di ogni tempo, che è il momento della rappresentazione teatrale. Secondo voi quanto deve essere lo sforzo della cosa pubblica per sostenerlo? E cosa significa sostenerlo? Dare delle possibilità a chi realmente, visceralmente, integralmente, con questo mondo ha qualcosa a che fare, per arte, per dinastia, perché molte volte chi fa teatro lo fa secondo una trasmissione dinastica, non c'è nulla di male in questo, che è qualcosa che uno spirito nomade, uno spirito folle che si porta nel sangue. O invece può diventare una maniera comunque per foraggiare amici, amici degli amici, sorelle degli amici, cognati delle sorelle e via dicendo. 800240024. Parma-Milan. Parma-Milan. Oh, ma certo. L'ha vista? L'ho vista. Ma certo. Non sembrava. Tutta? Tutta? Beh, ero lì. Ah, ecco. Sin dall'apertura del sipario. sipario. No, guardi, non era una rappresentazione teatrale, è una partita di calcio. Non eh? C'è il sipario. Stadio Reggio di Parma. Stadio Reggio quello di Parma. È teatro, Reggio, stadio Tardini. Vabbè. Ma ci dica della gara. La vista, no? La palla era lì. Sì, ecco, non cominci a dare aggettivi strani alla palla, che è un oggetto inanimato, quindi non può essere né affranta né avvilita. Oh. Chiaro? La palla era semplicemente lì. Oh, finalmente. Oh. Ansiosa. Ansiosa di cosa, poi? Che bramava di superare la soglia della porta. Sì, la linea. E ci tentava dovunque. Sì, allegro, ma non troppo ovunque, questo, in tutti i modi. Sì, e da sopra, e da sotto, sì, e di lato, e a destra, cioè, e a abbiamo sinistra, capito. E poi su, e poi giù. Abbiamo ma capito. Lì, sulla soglia della porta. Cosa c'era? Che c'era? Un bambino! No, questo è un quadruplo salto mortale. Un attore di talento, un attore che poi si reinveste oltre che nel teatro, anche nello sketch televisivo, e per questo assume fama, come appunto Francesco Paolo Antoni, che fa la presa in giro dell'attore impegnato. L'attore impegnato, non avendo luoghi in cui esprimere il suo talento, la sua arte, a volte la sua velleità, a volte anche il suo desiderio di rappresentare un personaggio che non c'è, un po', diciamo, l'eco lontano di un Gassman che tutta la vita ha voluto fare l'attore drammatico, quando in realtà ce lo ricordiamo soltanto maggiormente per la commedia brillante, che esercita la sua professione, la sua arte, il suo modo di rappresentare la realtà anche in banalissime operazioni come andare a parlare di calcio in un programma di calcio. Io comincio a presentare qualcuno dei miei ospiti, intanto aspetto le chiamate del pubblico. 800 24 00 24, cominciate a parlare del vostro rapporto col teatro. Andate a teatro? Vi sembra giusto che qualcuno pensi a sostenere, a finanziare il teatro, una forma di intrattenimento, di maniera per raccontare l'irreale, forse così antiquata, così desueta, ma allo stesso tempo così affascinante? Presento gli ospiti subito. Alla mia destra, Francesco Verdinelli. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Musicista, compositore e operatore teatrale, in quanto lui sostiene un piccolo ma fantastico teatro dalle parti di Via Sannio a Roma, che è il Teatro Lo Spazio, esattamente la via... Via Locri. Comunque lo conoscete dal mercatino Via Sannio. A un certo punto si entra fra un banco e l'altro, una via laterale, dove c'è un signore che vende zaini per Boy Scout, e c'è il Teatro Lo Spazio, dove Francesco Verdinelli silenziosamente e proficuamente esercita la professione anche di operatore teatrale. Direttore artistico insieme a Alberto Bassetti, è un teatro nuovo aperto da ecco, tre tu anni. Ti sei posto in questo periodo il problema del finanziamento pubblico, delle leggi, o comunque sia tu con la rassegnazione tipica di chi conosce il mondo, dice: io vado avanti lo stesso, poi vediamo. Il teatro è nato, per fortuna devo dire a questo punto, assolutamente senza finanziamenti pubblici, nel senso che Alberto Bassetti ed io abbiamo siete trovato... ricchi di famiglia? Non siamo ricchi di famiglia, abbiamo chiesto qualcosa a una banca, ma insomma, mettendo a garanzia le case, come qualche volta accade. Comunque abbiamo trovato uno spazio molto bello vicino Via Sannio, un vecchio palazzo di fine Ottocento su tre livelli, e passando davanti continuamente a questo spazio abbiamo deciso di farne un teatro, e da lì veramente un'avventura pazzesca, perché non pensavamo fosse così complicato dal punto di vista economico. Fino ad oggi non abbiamo avuto una sola lira di finanziamento pubblico, che da un lato per me è fantastico, è un motivo d'orgoglio, motivo d'orgoglio, e motivo soprattutto non devi dire grazie a nessuno, non devo dire grazie, no, e sicuramente non mi sono aspettato nulla, per cui mi trovo forse con meno difficoltà rispetto a chi magari da qualche anno ha potuto sopravvivere anche grazie a sostegni pubblici. Certo, è dura, insomma, nel senso che non è facile. C'è un momento proprio gratificante nella vostra stagione, nel vostro periodo. In realtà ci sono dei momenti di verifica e di risposta da parte del pubblico, molte volte guardando il botteghino che l'angolo, la sala vuota, dice: ma chi ce lo fa fare? Cioè, hai avuto momenti di sconforto, però alla fine se fa un bilancio a fine di una stagione, ecco, tu dici: ha valso la pena, al di là della passione tua individuale. Io dico sempre: è valsa la pena, assolutamente, perché fortunatamente questo teatro Lo Spazio qui a Roma ha un taglio completamente diverso. Abbiamo voluto aprire un teatro un po'. Io ho vissuto un paio d'anni a New York, Alberto ha vissuto un paio d'anni a Parigi, e ci sono degli spazi un po' diversi, non un classico teatro. È un teatro dove all'interno c'è comunque un bar, c'è possibilità, ci sono doppi spettacoli, sale prove, ci sono dei concerti, e un teatro Io dico sempre, nella pubblicità va un nuovo teatro per un teatro nuovo, con grande presunzione. Quindi bisogna reinventarsi e ridare un'elasticità al concetto di teatro. Non è un teatro che apre e chiude con l'inizio e la fine della rappresentazione in cui ci si incontra. E forse l'idea che a me dà il teatro è sempre di qualcuno che ti apre, come con una cerniera lampo, una fessura verso un'altra realtà. E finché stai lì puoi anche soltanto guardare la rappresentazione o puoi anche convivere con altre persone che vivono questa esperienza. Assolutamente. Allora, insieme a Francesco Verdinelli in studio ho due fantastiche donne, una già stata sollevata, l'altra ci sta pensando se è il caso. Evelina Nazzari, buongiorno. Buongiorno. Evelina Nazzari è un'attrice cinematografica, un'attrice teatrale. Teatrale di più, direi. Ma hanno scritto anche cinematografica. Ma forse è il cognome che induce a errore. È un cognome errore. Molto pesante. Metti la cuffia però, se no dopo si sente il rumore della tua voce. Poi in questi giorni, fino al 3 aprile, sei in scena con Gaia Riposati in Bassa Marea di Roberto Russo al Teatro d'Arte Contemporanea Artificio a Roma. Gaia Riposati, buongiorno. Buongiorno. Anche lei è presente, attrice teatrale. Ma voi due insieme cosa avete fatto? Una comune femminile avete messo su un teatro? Anche abbiamo incastrato anche un uomo, sì, che è Fabrizio Bancale, e in tre abbiamo aperto questo spazio ad Artificio in Vicolo della Campanella 4. Al centro di Roma, al centro di dalla Roma. Parte opposta di Castel Sant'Angelo. Esatto. E che era un luogo già d'arte e teatro, perché è stato il primo bagaglino quando c'era Gabriella Ferri e poi è stato lo studio di un artista invece visivo, Avenali. Abbiamo cercato di tenere lo spirito di questo incontro tra arte e teatro e ne abbiamo fatto un luogo di incontro dei linguaggi dell'arte, in cui ospitiamo e produciamo spettacoli, mostre, concerti, eventi. Ma non a caso voi tre state qua, siete le persone che non si piangono addosso. Voi potreste fare le attrici, quella che semplicemente o banalmente la vostra attività, non dico banalmente in senso di attrazione, ma fate le attrici aspettando che qualcuno vi chiami, strapparvi le vesti, scendere. L'abbiamo fatto. L'avete fatto? Sì, ma abbiamo esperienza di questo. Sì, però sono di fronte all'esito di una scelta a fronte di questa esperienza. È giusto fare sentire la propria voce, è giusto protestare, è giusto portare le istanze, però ci sono anche degli esempi di persone che alla fine si rimboccano le maniche. Poi alla fine dice: il teatro ce lo facciamo da noi, sì, ce lo costruiamo. Per passione. Ecco, la stessa domanda che faccio a Verdinelli: come fate a sopravvivere? Vi sostenete? Cercate sostegno? Perché voglio entrare anche nell'aspetto pratico e gestionale. È bello, sembra un'attività per signori che fanno altre cose e vogliono divertirsi. Non credo sia il vostro caso. No. Tanto è più recente la nostra esperienza è più recente di quella di Francesco, perché è poco, insomma. Beh, siete anche abbiamo molto aperto più giovani. Oh. Beh, grazie. Non grazie, esageriamo. Cioè, per me soprattutto. Beh, comunque noi non stiamo in questo momento aspettando fondi pubblici, che ovviamente non ci dispiacerebbero, e come Francesco al momento abbiamo l'orgoglio di farcela con gli occhi aperti e con molte difficoltà. Però ovviamente io trovo che ci sia una doppia difficoltà. Possiamo provare a resistere senza i fondi pubblici, ma non senza una politica per la cultura. Quindi possiamo resistere senza ecco, i soldi. Spiegami questo ulteriore passaggio, che è interessante. Io credo che sia molto importante che ci sia una politica per la cultura sui giovani, sulle persone, che si finisca con questa storia di dire alle persone che la cultura è un in più. È una cosa non necessaria. Non pensa necessaria, come diranno oggi quelli che vedranno aumentata di mezza lira la benzina, incuranti di quello che ogni giorno spendono. Un paese senza cultura non esiste, questo bisognerebbe farlo capire, ma non c'è. Quando le persone arrivano a noi, e per fortuna stanno arrivando, sono poi entusiaste e conquistate, ma è molto difficile che passi il messaggio che sia fondamentale vivere la cultura, non solo vederla ma fruirla veramente. Io sono convinto che è una parola molto ambigua, cultura, sì. Dalla Proloco alle contesse di passaggio, chiunque può dirsi portatore di cultura, e quindi mi rendo conto chi deve poi aprire il borsellino si trova spesso in difficoltà nel discernere laddove sia veramente la cultura, anche per molte volte, anzi nella maggior parte dei casi ministeriali non nemmeno gli strumenti antropologici per farlo. Detto questo, però, è difficile comprendere come possa esserci un'umanità, un paese civilizzato senza qualcuno che coltivi, sostenga, tenga un occhio alla cultura. Sentiamo Enzo. Enzo, buongiorno. Enzo? Sì. Sì, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire anche io, ho detto già la vostra, ho 65 anni, sono circa 50 anni che mi occupo di teatro. E cosa fa nel teatro esattamente? Come? Cosa fa esattamente nell'ambito del teatro? Esattamente, praticamente mi occupo innanzitutto di teatro dialettale. Sono regista di una compagnia di livello amatoriale, sì. Anche se qualcuno dice, non sta a me a dirlo, di buon livello amatoriale. E lei vorrebbe i soldi dello Stato? No, assolutamente. Io voglio fare tutto un altro discorso. Perché mi sto in tutti questi dibattiti che ci sono in genere si parla soprattutto di compagnie professionistiche, non si parla mai del teatro amatoriale e secondo me si sbaglia perché no, però le dico una cosa senza togliere nulla, sì. Teatro, ma queste sono persone che hanno investito la loro vita, la loro professione, le loro risorse in un mestiere. L'amatoriale, come dice lei, di giorno fa il capostazione, il geometra, sì, quello sì, che vuole, sì. La sera va alla Proloco e gioca a fare il teatro, è un'altra cosa. È un divertimento, un hobby, come io vado a correre. Sì, sì, sì, perché è un hobby, però è un hobby. Però non è, nessuno deve finanziarlo, l'hobby ognuno se lo finanzia per conto suo. Questo è il mio punto di vista. Infatti, guarda, io volevo arrivare a questo. Siccome io sono in una città, Siracusa, che è una città teatrale per eccellenza, qui è nata la commedia, e ogni anno c'è il teatro classico che raccoglie un... Sì, ho capito, Enzo, senza... Il problema è proprio questo, secondo me... Nascono dei problemi, ci sono troppe situazioni, con pieno rispetto e orgoglio e divertimento, che in realtà sono a livello amatoriale e vengono comunque, per varie ragioni, finanziate o sostenute, e ci vorrebbe, secondo me, un principio discriminatorio a monte, distinguendo chi lo fa per divertimento, è lecito divertirsi in tutte le maniere, ma uno può anche giocare a bocce e non è giusto che qualcuno finanzi il gioco delle bocce quando è un'attività puramente amatoriale. Ragazzi, voi che vi godete a vecchiaia, ma pure voi faceste con l'anno vostro nella campagna e sapete che portate. Voi vedete come siamo comprati in questo paese, che tanto l'avevamo nel cuore e tanti amati. Quanto gente vi terrà vita loro che le passate avanti. Francesco Verdinelli, per dare spessore al mio modesto e incompetente parere, questo preso da YouTube, YouTube è pieno di velleità amatoriali, questo è teatro amatoriale calabrese. Io non voglio togliere a nessuno, figuriamoci se abbiamo questo atteggiamento discriminatorio e snobistico di prendere in giro i poveri guitti dei dopolavori, delle proloco, delle parrocchie e delle case del popolo. Però parliamo di un'altra cosa, o sbaglio? Parliamo di un'altra cosa, anche se spesso ci sono attori veramente bravi, e questo lo devo riconoscere. Mi è capitato di vedere delle compagnie amatoriali straordinarie. Certo, non è il loro allora lavoro, il vostro mestiere che avete dei teatri è andare a fare anche un minimo di ricerca. Se trovate bravi, dateli la possibilità del passaggio ulteriore. Il vero problema, penso, è proprio questo, che molte volte i finanziamenti sembrano piccoli, sembrano indifferenti tutti, vanno proprio a finanziare delle realtà che... Bisogna distinguere, la cultura non è tutto cultura. Cultura, ci sono dei canoni estetici e ben definiti. Il teatro amatoriale può avere delle qualità, può avere dei pregi, ma non è quello che secondo me va finanziato. No, su questo sono d'accordo, anche perché insomma così è. Chi si occupa di teatro, chi fa teatro, assolutamente fa un lavoro pazzesco, un lavoro nel quale ti devi occupare di tutto, devi sapere di tutto. È un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti. Bisogna avere un rendiconto, tenere una partita IVA e via dicendo. E il teatro amatoriale non basta semplicemente mettersi un palcoscenico e parlare. No. Se tu fai l'imprenditore, lo fai imprenditore di cultura, è un altro tipo di offerta. Assolutamente, su questo sono 800 24 00 24, soltanto un minuto per dare le informazioni della borsa, poi riprendiamo con il teatro, i suoi problemi e le sue meraviglie. Tra un istante. Email melog@radio24.it. Nel pieno d'una notte tarda e afosa, io e la dama mia sulla vettura giungemmo in Camporella, in zona ascosa, poiché la del guardonte ne ha paura, primanco di sganciarlo tieni seno, li vetri a gazzettar ebbi gran cura, con fame astinenzial di mesi almeno, tuffommi in su di lei, ma porca vacca, mi pianto nello sterno il mano al freno, lo trauma intercostal l'ardor non fiacca, ma impervio è il fornicar entro sta panda, dannata imitazione di Fiat polacca. Questo è Maurizio Lastrico, uno degli artisti di Zelig, che parla delle disavventure amorose dentro una panda, però recitato in stile come fosse Dante che recita la Divina Commedia, o come fosse Benigni che recita Dante, che è ancora peggio e ancora più denigratorio del testo. Ecco, chissà perché quando si parla di attore, quando si rappresenta un attore, lo si rappresenta sempre in maniera grottesca, come un residuato, come una reliquia di tempi passati che deve adattarsi ai ritmi della contemporaneità e ai suoi banalissimi antiquati strumenti, e quindi risulta grottesco, risulta ridicolo. Ho qui in studio, visto che oggi parliamo di teatro, parliamo di sostentamento pubblico dell'attività teatrale, due attrici e un operatore teatrale. Francesco Verdinelli, ricordo, del Teatro Lo Spazio di Roma, Evelina Nazzare Gaia Riposati, del Teatro d'Arte Contemporanea Artificio a Roma. Evelina Nazzari, conviene che sia un po' il luogo comune più ricalcato, quello di rappresentare l'attore nella sua versione grottesca, di artista inadeguato ormai ai tempi in cui non ha più senso di esistere qualcosa del genere. Oggi l'attore è qualcos'altro, è quello del film, della fiction televisiva o del reality show, che in realtà è una sorta di reinterpretazione contemporanea del neorealismo. Sì, credo che nell'immaginario comune l'attore sia una cosa un po' vaga che si vede in televisione e compare. Cioè, credo che ci sia molto questo bisogno di comparire, no? Cioè, lo vediamo con tutte queste trasmissioni. Comparire già significa, cioè, comunque già significa esistere. Esatto. Dici, ma che cosa fai? Non fa niente. Sono là, sono dentro quella scatola e questo conta. Cioè, io voglio fare l'attore, Cioè, ma in che consiste? Non lo so, non ha importanza. L'importante è che mi vedano. Ecco, c'è un po' questa cosa un po' allucinante. Gaia Riposati, affonderò ancora di più la lama con te. Spesso i vincitori, gli evidenziati dei famosi reality show, dei Grandi Fratelli, dicono: adesso cosa vuoi fare? Adesso studio, voglio fare l'attore. Dopo un mese già sono pronti per il primo film o la prima fiction. Vogliamo solo un istante, anche se so che è banale domandarvelo, spiegare cosa c'è a monte di dire faccio l'attore teatro. Mi fai essere cattiva. Già chi dice adesso studio, poi studia solo un mese, è già un illuminato. Sì, esatto. C'è anche chi prende e lo fa. Esatto. Diciamo che, per esempio, la mia storia è stata diversa, come quella di molti di noi che poi fanno realmente gli attori per anni e non come meteore ogni tanto di passaggio. E la mia storia è quella di studio, di anni, di studio con delle scuole reali, di studio poi nella pratica di compagnie, con stage internazionali, perché ci tengo a dirlo, l'attore non è quell'attore così stantio e ormai forse inesistente. Ma deve essere in grado di saper fare anche quello. Ma deve essere in grado di saper fare quello, deve conoscere una dizione per poi poterla dimenticare quando deve parlare in dialetto, deve poter avere un'impostazione della voce, un uso del corpo, una padronanza del proprio strumento, perché poi possa dimenticare lo strumento e dare le emozioni, le sensazioni, la magia che è tuttora il teatro. Rimane allora questo punto di discrimine che abbiamo aperto noi all'inizio. Non tutto e non tutti ha dignità di essere pubblicamente sostenuto. Francesco Verdinelli, andiamo avanti su questa cosa che stavamo dicendo, visto che il punto che abbiamo toccato questa mattina è, piuttosto che indignarsi e strapparsi le vesti sul mancato finanziamento, diciamo, ma ammesso che il budget sia questo, chi, come, in che maniera dovrebbe discriminare, avere il coraggio di dire fino a questo punto sì, noi teniamo d'occhio e in considerazione quello che accade, da questo punto in giù consideriamo attività puramente ludica e gratificatoria per chi la fa. Io credo, per esempio, un albo degli attori, ora non so, sembra sempre così difficile poter scegliere, però insomma, come in qualunque altro lavoro, se fai l'ingegnere hai comunque una laurea, se fai il salto con l'asta o passi o non passi, ecco, molto difficile definire questa cosa, però attore è un mestiere preciso, assolutamente, non ci sono scuse, è molto difficile poterlo definire, ma il fatto di apparire in televisione appunto non ti fa attore, ti fa uno che appare, che passa. passami. Vorrei sì, solo spezzare una lancia a favore del teatro all'antica italiana, non perché io venga Evelina da una Nazzani, ecco, sì. Ma che è un ambito definito, già cominciamo anche, a dire. Ecco, c'è anche questa possibilità, nel senso che come si usava, c'era la gavetta. Era un'altra cosa. No, però per, infatti, sì, per dire che è possibile. Gaia ha fatto tante scuole, io ne ho fatte pochissime, poi ho imparato sulle tavole e questo succedeva un tempo. Tu sei anche figlia d'arte, quindi. Esatto, e mio padre faceva così, nel senso che cambiavano commedia ogni sera. Era una palestra mostruosa, naturalmente non so gli spettacoli come fossero, però l'attore usciva che sapeva conosceva tutti gli strumenti che occorrono a fare questo mestiere. Cioè l'importante poi è la serietà. Come ci arrivi non ha importanza. Tu puoi fare la gavetta e dire il pranzo è servito, poi dire tre battute in più. Questo va bene. È il dire, siccome so carina, c'ho i muscoli, cioè questo è l'equivoco, esatto. C'è un equivoco di fondo mostruoso. Ecco, non è una laurea honoris causa fare l'attore e occuparsi teatro. Qualcosa che si impara. Dico perché oggi molte volte nei teatri ci sono giornalisti che fanno reading, ci sono uomini noti che vanno, chiacchierano, raccontano. Io stesso vado a sollevare le donne, ma io non ho mai detto di fare l'attore. Io faccio il cialtrone per mia naturale e fisiologica predisposizione. Abbiamo al telefono un'altra realtà che sarebbe ancora più interessante e ancora più drammaticamente problematica. Carlo Putelli, tenore solista del coro dell'Accademia di Santa Cecilia. Non so quanto lei abbia sentito del nostro dibattere, ma penso che anche... Mi faccia un esempio. Lei è un tenore solista. Pronto? Sì. Buongiorno a tutti. La sua giornata è una giornata che assomiglia molto alla giornata di un qualsiasi impiegato, perché svolge un lavoro e quindi non è che lei passa la giornata in un salottino fra profumi, ambre e velluti e poi la sera si dedica ai suoi assolo. Certamente. Beh, guardate, il livello professionale di chi fa il mio lavoro, insomma, di chi è lì in studio, che saluto, insomma, di chi è musicista, di chi è attore, dei ballerini, degli attori, dei cantanti, è altissimo nel nostro paese ed è il risultato di enormi sacrifici, di anni di studio, di amore per quella che è una vocazione. Il primo ballerino del Met ha un nome italiano, si chiama Bolle, i direttori più grandi di orchestra hanno nomi italiani, si chiamano Abbado, Muti, Pappano, i più grandi solisti si chiamano Pollini, Accardo. Ma oltre ai più noti esiste una gamma infinita di persone come lei che sono dei professionisti, che comunque si sono coltivati, devono continuare a coltivarsi, sanno comunque, coltivano un mestiere che si va in pensione anche abbastanza presto. Io ho un'amica che oggi doveva intervenire, che è l'étoile del Teatro dell'Opera di Roma, Laura Comi, poi era impegnata nelle prove, e a 40 anni scarsi già sa che comunque per lei sta per finire e fa un lavoro bestiale di fatica e di impegno e timbra il cartellino come un'impiegata. Qualcosa di simile accade anche per lei? Sì, accade anche per me, ma insomma, voglio dire, il cartellino è la parte, diciamo, inevitabile di quello che è poi, voglio dire, la consuetudine burocratica. Sì, ma va detto, sa perché? Perché tutti, c'è il fraintendimento oggi di quelli che vanno a fare il pieno di benzina, sì, e vedono che devono pagare 50 centesimi in più, dicono, vedi, i nostri soldi buttati per gente che non fa niente. Per far capire che il vostro lavoro a tutti gli effetti. Assolutamente, assolutamente. Ecco, questa è una, vabbè, qui si dovrebbe aprire su questo fatto della benzina su questo fatto diabolico del governo di associare, appunto, ecco, noi aumentiamo la benzina perché è dobbiamo un macchiavellismo fantastico, se ci pensa bene. Sì, sì, sono quelle cose che poi purtroppo rendono le cose ancora più difficili per, ecco, noi. Lei lavora a Santa Cecilia, rispetto al problema appunto dei finanziamenti e dei, diciamo, delle compensazioni, sì, di bilancio. Lei cosa da dire rispetto proprio all'aspetto dell'attualità? Ma noi sostanzialmente siamo l'eccezione che conferma la regola di un disagio che prima di tutto è un disagio delle regole di come vengono gestiti i teatri, che andrebbero riscritte dalle fondamenta. Cioè noi abbiamo un bilancio che è in pari ed è sempre stato in pari, e per il 2010 è più del 50% di entrate proprie, superando il minimo richiesto fissato al 40% dal governo. Ma questa eccellenza non dipende da un merito intrinseco dei lavoratori stessi delle masse artistiche, ma dal fatto che Santa Cecilia ha un po' una meravigliosa anomalia tra i teatri e le fondazioni del nostro paese, ha la peculiarità di avere una maggiore autonomia di gestionalità nella nomina, ad esempio, del sovrintendente, che ci rende più indipendenti da influenze non siete politiche. Costretti a pagare marchette nei vostri quadri dirigenziali, e questo diciamo è che la palla no, no, diciamo uno dei grossi problemi che le aziende culturali sono infestate di amici degli amici, quando uno non sa dove metterli li sbatte in queste cose qua, dice ma tanto la cultura che vuoi non puoi fare danni. Esattamente, ha capito perfettamente, cioè l'influenza politica esterna cari a livelli eccelsi, cari ai livelli del ministero, si di salvaguardare le risorse economiche della nostra fondazione, di conservare la crescita qualitativa delle compagini, cioè, esiste una battuta cattivissima che non voglio assolutamente applicare, Dio me ne guardi, a situazioni contingenti, ma quando si dice braccia strappate all'agricoltura ci troviamo esattamente in questa contingenza in questo momento. Grazie mille. 800 24 00 24, tra un istante dopo le informazioni del traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite. Faccio un brevissimo riassunto per evitare fraintendimenti rispetto al senso di questa colorita trasmissione, ma io volevo dare voce a persone che concretamente, realmente, materialmente e con grande senso di buona volontà e rigore lavorano nel mondo dello spettacolo. Non so, sembra sempre che sono i soliti nomi quelli che si vedono intervistati in televisione che sono coloro a determinare il polso. Il mondo variegato allo spettacolo, del teatro, della musica lirica, del ballo, delle rappresentazioni, anche del cinema in certa maniera, è fatto anche da professionisti, da persone che si alzano la mattina e hanno la perfetta consapevolezza e pieno titolo a dire che svolgono un lavoro. Non si pensi, perché un po' la vulgata diventa questo, che in realtà vengono sottratti denari a un'attività concreta e utile e produttiva, togliendo appunto pochi centesimi alla benzina per darlo a guitti, perdi tempo e persone che in realtà non fanno nulla di utile. Ve lo dice una persona che è una vita, che sente dire mangia pane a tradimento. Da quando ero ragazzino me lo diceva mio padre, continuano a scrivermelo oggi gli ascoltatori, vai a lavorare finalmente. In due ore il Consiglio dei Ministri, vi riassumo la vicenda, ha deciso di reintegrare il FUSC, il fondo appunto con cui il governo decide di finanziare e sostenere lo spettacolo. Quindi cancella l'aumento che era stato previsto di un euro del prezzo del biglietto del cinema, che già aveva terrorizzato tutti coloro che sono appassionati comunque di questo genere di attività culturale. Garantisce quindi in modo permanente i famosi 149 milioni di euro per lo spettacolo e attraverso varie fonti, varie forme di finanziamento, comunque le cose più o meno ritornano come erano le attese, però i soldi verranno presi da un nuovo aumento della benzina, un piccolo sacrificio, è stato detto di 1-2 centesimi, detto appunto Gianni Letta, che tutti gli italiani saranno lieti di fare, ma in realtà le associazioni dei consumatori e dei gestori dei carburanti non sono affatto lieti, già stanno facendo casino in internet, quindi abbiamo evitato la manifestazione di piazza degli operatori dello spettacolo, avremo quella dei benzinari, dei garagisti e di tutti quelli che se la piglieranno. Francesco Verdinelli, impresario è una parola antica, no, operatore teatrale, però era bella, l'impresario teatrale è bella. È stupenda. E quel signore con le bretelle che si approfitta sul divanetto delle attrici. Assolutamente. Cosa che tu non fai. Volevi anche tu fare un chiarimento, se no sembra che veramente togliete la benzina dai serbatoi dei poveri lavoratori. No, in realtà io riprendendo appunto, noi come Teatro Lo Spazio siamo associati all'Agis e l'Agis precisa fra l'altro che le risorse economiche derivanti dall'aumento delle accise sulla benzina deliberato dal Consiglio dei Ministri di ieri sono destinate solo in minima parte alla cultura, ma servono a coprire anche altri costi molto più rilevanti per le casse dello Stato, ovvero l'intervento italiano in Libia, la gestione e l'assistenza ai profughi di Lampedusa, strumenti destinati alla sicurezza dei cittadini, eccetera. Per cui io credo che veramente su tutto questo aumento di un centesimo, non so, poi andremo a vedere che cosa... Sì, in realtà vanno più alle operazioni, vengono fatte a Lampedusa sui profughi e alle operazioni di pace che vengono fatte bombardando la Libia, quindi in questo momento... Sì, poi bisogna prendersela con lo spettacolo, con gli operatori culturali, perché insomma è più facile. Capro espiatorio serve sempre. Andiamo benissimo. Ecco, la voce che sentite, per chi si fosse in questo momento collegato alla nostra missione, è Evelina Nazzari, attrice assieme a Gaia Riposati, altra attrice qui in studio con con noi, sono le tenutare del Teatro d'Arte Contemporanea Artificio a Roma. Bello. E sono molto attizzata l'idea quando ho detto tenutare, perché chissà, le donne di spettacolo sono così, notoriamente di ilare animosità e di coscia generosa, come si dice normalmente. Abbiamo Gianni, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ascoltandovi da una mezz'oretta a sta parte al telefono, mi sono venute in mente anche un paio di cose. Ma si è anche divertito? Che già volevo dire, assolutamente sì, però ci sono un paio di cose che in realtà non mi hanno molto divertito. Sì. E se mi è consentita la provocazione, visto che tu ne fai molte, mi sarà consentita. Veloce, sì. Una, ed è la prosopopea, e la parola non è casuale, degli attori professionisti. Ora sono certo. Beh, la gente si fa un culo così, scusa, per vent'anni, lasciali dare un po' di prosopopea rispetto sì, ai cialtroni che vedono in televisione dire faccio l'attore dopo. Siamo d'accordo, però se è vero come è vero, e come avete detto più volte, che poi alla fine è il pubblico che determina che cosa è giusto e che cosa non lo è. Per quale motivo allora un ingegnere con il master eccetera eccetera deve farsi della clientela, mentre un attore con una esperienza eccetera ritiene di essere assolutamente superiore? Però scusa Gianni, questa mattina ho portato degli esempi che confermano la tua teoria. Io porto gente che non piange, non si straccia le vesti, si sono fatti il loro teatro e si mantengono la loro attività, il loro piacere, il loro lavoro gestendo il proprio teatro. Sono imprenditori, non sono attori che hanno la prosopopea, se no avrei chiamato altre persone, sarei qui circondato da noti nomi dell'intrattenimento televisivo. Però volevo introdurre un'ultima realtà anche importante rispetto a quello che abbiamo detto, anche se di diverso spessore. Elena Bonelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Elena Bonelli è un'attrice, produttrice, ha realizzato recentemente un film a sud di New York, sarà presentato in questi giorni. Velocemente, chi sei te, come fai, come ti sei trovata i fondi, i finanziamenti, e spiega cos'è il tuo lavoro, perché sennò c'è questo malversato intendimento per cui chi fa lavori come i tuoi, tu sei anche un interprete, sei una cantante, anche certo, tu hai conosciuto la rudezza delle tavole del palcoscenico, quindi puoi meglio di tante altre persone rispondere anche al nostro ascoltatore. Assolutamente, perché io vengo dal teatro e insomma sono 20 anni che faccio teatro con un genere musicale, teatrale musicale, che dal 96 porto in giro in tutto il mondo. E rudezza del palcoscenico per me è dolcezza delle tavole del palcoscenico, perché è una scelta che ho fatto fin da bambina e quello era il mio obiettivo, portare il teatro musicale italiano, le cose insomma che faccio io, l'ultimo progetto, la canzone romana nel mondo, farla conoscere. E dietro questa attività artistica c'è comunque sempre stata un'attività imprenditoriale, per cui mi sento pienamente inserita nell'ambito del tuo programma e anche con tanti colleghi che saluto e ciao, a cui Elena faccio i complimenti, perché so cosa vuol dire essere artisti e imprenditori. Qui tu sei un'imprenditrice, tu hai un'azienda per fare le cose che fai. Sì, ho un'azienda, ho tre società, una che produce, l'altra che promuove nel mondo e l'altra che fa cinema, da ben 20 anni che ce le ho. E naturalmente al di là di quelli che sono i finanziamenti ministeriali a cui abbiamo sempre preso parte, li hanno sempre dati, ma ultimamente li abbiamo proprio mollati, perché proprio per i tagli e per quelle briciole che rimangono in Italia alla cultura, alla fine, come si diceva, non valeva più neanche non vale la pena di aprire la pratica, conviene cercare altre fonti. Esatto, anche perché si sono innescate poi cose insomma che ben sappiamo, è inutile tornarci sopra, legami, ecco, come dicevate prima, il figlio di, il cose infilate, insomma non ci va più di far parte di queste cose. Noi siamo una realtà produttiva seria che va avanti, si è fatta conoscere nel mondo e apprezzare, abbiamo portato questi spettacoli nei più grandi teatri del mondo, dal Carnegie Hall, l'Opera House di Sydney, teatri dell'opera di 2000, 3000, 4000 posti, e siamo orgogliosi di questo. Cosa c'è dietro? Un qua zero contributo ministeriale, ormai zero. E, ripeto, l'abbiamo lasciato, e tanta fatica, impegno di mezzi personali, e soprattutto si lavora, si incassa e si riproduce, si lavora, si incassa e si riproduce. Questo è stato il nostro credo. Ecco, mi sembra che Elena Bonelli proprio in conclusione ci ha fatto un quadro, e è la risposta più concreta a tutti quelli che continuano a dirci ma la prosopopea, le persone di spettacolo, chi scrivono ad essere. Elena Bonelli ultimamente ha prodotto anche un film che si vedrà tra pochi giorni a sud di New York, ha una sua azienda, ha vari dipendenti, dipendenti che hanno loro grazie a lei, va la mattina a lavorare presto e passa la giornata lavorando, come fa Francesco Verdinelli, come fa Evelina Nazzari, come fa Gaia Riposati, come fanno le persone che ci hanno ascoltato. Questa è la nostra modestissima e personale risposta alle polemiche di questi giorni e al dibattito di questi giorni. Speriamo di aver dato un nostro piccolo contributo. A lunedì. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.